got to give a little. Indovina chi viene a cena? Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Siamo tornati, bentornati a tutti da Valentina Furlanetto, nuova stagione di Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 che vi porta intorno ai fornelli per parlare di cucina, ma anche di identità, migrazione, pregiudizio, ispirandoci al famoso film degli anni 60, era il 67, 50 anni fa, quando uscì questo film Indovina chi viene a cena. 50 anni dopo ci facciamo ancora purtroppo le stesse domande. Ma stasera ce ne poniamo anche un'altra. Cos'è tipico? Cos'è autoctono? E la cucina può essere definita autoctona o è sempre meticcia? Ne parliamo con un ristoratore, il ristoratore e chef de El Brite dell'Arieto, che è un ristorante delle Dolomiti, esattamente a Cortina, per un episodio che è finito su tutti i giornali di qualche settimana fa, che riguarda una recensione che ha avuto questo ristorante tipico delle Dolomiti, dove il cliente si lamentava non tanto del cibo che aveva consumato, dell'ambientazione definita incantevole, ma del fatto che la cameriera che aveva servito a tavola, vestita con costume ampezzano, era una cameriera nera di colore. I ristoratori si sono molto arrabbiati per questa recensione su TripAdvisor e hanno chiesto a TripAdvisor di toglierla, così è stato. E quindi noi abbiamo pensato di occuparcene per capire che cos'è veramente tipico. Noi siamo in linea con El Brite dell'Arieto e in particolare con lo chef e uno dei titolari, Riccardo Gaspari. Benvenuto. Buonasera. Ho pronunciato bene il nome? Perfetto. Che è un nome tipico, no? della zona. Sì, Brite vuol dire Maiga, quindi è in dialetto proprio, sì. E l'Arieto, diciamo, è la zona dove è il ristorante, che sarebbe un lariceto molto, molto bello, quindi si chiama Brite dell'Arieto per questo. Allora, all'ombra dei larici delle Dolomiti a Cortina c'è questo bel ristorante tipico, dove voi poi ci racconterà, cucinate una cucina utilizzando i prodotti della terra, rispettando la tradizione, rispettate la tradizione anche in sala, no? Nei costumi, esatto, delle cameriere. Sì, abbiamo questo vestito che non è proprio un vestito ampezzano, diciamo che è comunque un vestito di montagna. E niente, come diceva lei, è successo questo fatto un po' di giorni fa, che secondo me è una cosa abbastanza grave per quello che ha scritto il signore e anche per TripAdvisor che l'ha pubblicato senza far nessun, cioè senza problemi, insomma. E questa recensione voi avete subito chiesto che venisse tolta? Sì, noi abbiamo cercato di farla togliere prima ancora che la leggesse la ragazza. Per fortuna noi l'abbiamo vista subito, non voleva anche la ragazza la leggesse perché sapevamo che sarebbe rimasta male. Poi è venuto fuori tutta questa storia qua, lei l'ha letta, insomma si è rimasta male. E sì, è un po' il problema, diciamo, che ognuno può scrivere quello che vuole e uno in 5 minuti può giudicare il lavoro che delle persone fanno per tutta la giornata, per tutto l'anno, che si impegnano, che cercano di farlo al meglio. Questa ragazza è originaria della Guinea Bissau, ma vive a Verona da moltissimi anni, è italiana ormai di fatto, e voi l'avete assunta, mi diceva che è una brava dipendente. No, è molto brava, lavora da noi da 2 anni, e sempre è molto carina, molto educata, è brava nel suo lavoro, è proprio... Lei non si era posto la domanda quando l'ha assunta? No. Se questa cosa avrebbe potuto comportare delle critiche? No, non ci ho neanche pensato, perché mi sembrava una cosa normale, voglio dire. Se una persona è brava a lavorare, basta, si risolve tutto lì. Basta che sia brava a lavorare. È la prima volta che riceve una critica per questo? Ma sì, è la prima volta questa. E spero che sia anche l'ultima. Alla fine voi avete ottenuto che la recensione venisse eliminata dal sito di TripAdvisor. Sì, l'hanno tolta, sì, cioè noi volevamo anche la togliessero subito, appunto perché nessuno la leggesse. Forse è stato meglio che l'abbiano letta, così si rendono anche conto delle cavolate che possono scrivere su TripAdvisor, di come funziona TripAdvisor, di che strumento è. Perché noi ne parliamo? Dunque, noi parliamo sempre nel nostro appuntamento, invitiamo a cena per parlare di cibo e di identità una persona di solito di origini straniere e italiana di fatto. In questo caso abbiamo voluto parlare di questo tema per parlare con lei di tipicità. Che cos'è la tipicità? Che in cosa consiste in realtà un ristorante tipico? Può essere considerato tipico un ristorante che ha prodotti tipici e una ragazza che lavora veronese ma di colore della pelle diverso dai tipici ampezzani, secondo lei? In cosa sta la tipicità del suo ristorante? Deve essere dall'arredamento tipico del luogo, in primis, e che possa raccontare una storia di tipicità, non lo so, ad esempio noi dai piatti, che possono essere dai piatti, dalla storia dei piatti che venivano cucinati dai nonni e queste cose qua, e il perché venivano cucinati questi piatti, riproporli magari in maniera diversa da una volta, però comunque con gli ingredienti locali. Questa è la tipicità. Negli anni, gli chef e i cultori della cucina italiana hanno evidenziato fortemente l'importanza del territorio, l'idea di presidio di un prodotto. Sono anche stati rinforzati orgoglio e amore per la propria terra, così come la consapevolezza dell'importanza di utilizzare prodotti coltivati a chilometro zero. Tutto questo, però, sarebbe sterile e ottuso se non si fosse aperti all'altro. E se non si fosse coscienti di quanto l'ibridazione culturale sia un processo tanto ineluttabile quanto arricchente. La cucina, infatti, è sempre meticcia, anche se non ci si pensa. Come si fa a dire ad un italiano che il pomodoro non è autoctono e che fino al 1500 circa la pummarola non esisteva e che anche gli spaghetti non sono nati in Italia? La pasta, infatti, inizia ad essere presente in Italia nel Medioevo. A contendersi l'invenzione sono arabi, cinesi e italiani. In Italia se ne parla per la prima volta nel Liber de Cochina, elaborato nel 300 alla corte angioina di Napoli. Di sicuro alla presenza araba in Sicilia si deve il metodo di far seccare la pasta per poterla conservare e non a caso fu siciliana la prima fabbrica che già nel XII secolo esportava pasta secca in tutto il Mediterraneo. Fu però nella prima metà del Seicento che il consumo di pasta conobbe un'importanza e una diffusione assolutamente nuove. E solo dal 1800 viene condita con il sugo di pomodoro, ortaggio, lo ricordiamo, importato dalle Americhe e poi diffuso in tutto il mondo. Anche il risotto alla milanese non ci sarebbe se non fossimo andati in Oriente e avessimo importato lo zafferano, grazie al quale i chicchi si colorano di giallo e il nostro piatto sprigiona un odore inconfondibile. Per non parlare dei prodotti che negli ultimi 50 anni sono lentamente entrati nella nostra cucina. I bambini e i giovani ormai considerano normali questi cibi, come se fossero sempre esistiti in Italia. Stiamo parlando delle banane, dei kiwi, dello yogurt, ad esempio. Ma siamo in buona compagnia, perché ad esempio il tè inglese è indiano e le patate degli amici tedeschi in realtà sono americane. Sono state introdotte in Spagna nel 1570 e poi in tutta Europa. Ci fermiamo brevemente, torniamo a parlare con lei tra pochissimo. Il mio piatto migliore. Quello grande, per le pizze Roncadin. Roncadin, nel banco freezer. Vi presento. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Siamo oggi con Riccardo Gaspari, lo chef e uno dei titolari del ristorante El Brite de l'Arieto, un ristorante delle Dolomiti, di Cortina esattamente. Parliamo con lui di che cos'è tipico, perché come avrete sentito nella prima parte, come avrete letto anche sui giornali, questo ristorante è stato criticato da un unico cliente su TripAdvisor, non tanto per il menù, per i servizi, ma perché c'era una cameriera di colore che indossava un costume tipico. Cameriera che vive in Italia da moltissimi anni, che è molto brava nel suo lavoro, e il ristoratore ha chiesto a TripAdvisor che venisse tolto il commento, e così è stato. Riccardo, lei è anche chef, parlavamo con lei di tipicità poco fa. Ci racconta qual è il piatto tipico che viene servito nel suo ristorante? Ma noi qua facciamo un po' di tutto, dalla polenta con il goulash, dai knedder, l'imbrodo, i casunzie, che sarebbero dei ravioli di rapa rossa con il burro fuso e semi di papavero, dalla carne affumicata, qua si mangiava molto. Tutti i prodotti del luogo? Sì, tutti locali. Noi tra l'altro abbiamo un'azienda agricola, quindi quasi il 70% di quello che serviamo in tavola viene dalla nostra azienda. Quindi chilometro zero. Sì, abbiamo proprio tutta la... sappiamo insomma da dove arriva la roba che mettiamo in tavola. Qual è il piatto che ci vuole regalare? C'è una ricetta che ci può raccontare? Sì, i knedderli al formaggio secondo me sono buonissimi. Qua il formaggio era... insomma un prodotto abbastanza, cioè, tutti avevano le mucche, facevano il formaggio, quindi era un piatto che facevano penso tutte le famiglie, che si tratta solamente di pane, diciamo, raffermo del giorno prima o di due giorni, insomma pane vecchio ammollato nel latte con uovo, formaggio tagliato a pezzettini, un po' di ricotta e dell'uovo per legare in tutto. Viene cotto in acqua salata oppure nel brodo di manzo. E questo è, insomma, è una ricetta semplicissima che però è molto gustosa e molto buona. Goddamn, I know you love to make an entrance. Do you like getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Ci sono delle novità che lei ha introdotto come chef nel menù, magari qualcosa che non fa parte della tradizione di Cortina o delle Dolomiti, ma che a lei ha ritenuto di dover introdurre? Ma adesso noi abbiamo aperto un altro ristorante che si chiama San Brit, noi avevamo anche una latteria. Abbiamo aperto questo ristorante dove facciamo una cucina sempre del territorio di montagna, però meno tradizionale rispetto al ristorante El Brite dell'Arieto. A me piace proprio usare le materie prime di qua e magari rielaborare e inventare dei piatti nuovi, però sempre con materie prime povere, di montagna, e valorizzare insomma il mio territorio. Quindi piatti più moderni. Sì, più moderni, però sempre con la stessa filosofia di prima. Abbiamo cavoli, abbiamo rape, in carne ne abbiamo parecchi, abbiamo poco pesce, abbiamo solo pesce di fiume o di lago, e quindi cerchiamo di... in ogni piatto, diciamo, c'è un ingrediente del territorio. Non facciamo nessun piatto che abbiamo come ingrediente principale un prodotto che non sia del territorio. Però la cucina si trasforma anche nel tempo, quello che una volta non era ritenuto tipico poi magari nel corso degli anni, dei decenni e poi dei secoli diventa parte di una tradizione. Sì, poi diciamo che anche avendo un gruppo di lavoro solamente fatto di persone italiane, diciamo che anche loro danno il loro contributo con, non so, cercando di fare un piatto, magari io ho un'idea molto di qua e una persona non viene da Cortina, non viene da queste zone, e lo si lavora insieme, lo si cambia, lo si migliora con magari degli accorgimenti che ha uno del, insomma, una persona che ha vissuto in un altro posto, che ha altri sapori. Tra i suoi collaboratori ci sono molte persone che vengono da fuori. Ci racconta com'è la sua squadra, da chi è composta? No, noi ne abbiamo da italiani, abbiamo ucraini, abbiamo singalesi, abbiamo? Abbiamo un po' di tutto. A me se non è che interessa da dove, anzi, da più parti arrivano meglio è da un lato, perché comunque riesci a scambiarti più informazioni, è anche più divertente lavorare. Quindi ovviamente quando sceglie un collaboratore non guarda la provenienza, ma la bravura, sono persone di cui si fida. Beh sì, certo, sì. Ma l'importante è che sia educato, è la prima cosa. Poi se uno anche è meno bravo a lavorare, comunque il lavoro si impara. L'importante è che sia una bella persona e educato. Questa è la prima cosa. E poi il resto viene di conseguenza. Quindi al Brite dell'Arieto di Cortina sono aboliti i pregiudizi sia fra le persone che fra i gusti, insomma, non avete paura delle novità? No, no, anzi, ci fa molto piacere, per fortuna che ci sono, che ce ne sono. E invece per quanto riguarda TripAdvisor, lei mi faceva notare come il lavoro di una squadra di tutti i giorni, di molte ore di lavoro e costruito negli anni da una famiglia, lei e la sua di famiglia proprietaria del ristorante Ampezzano, talvolta può essere distrutto o rischi di essere distrutto da una breve recensione che viene fatta con leggerezza magari da un turista, non necessariamente come in questo caso è stato per un pregiudizio razziale, ma a volte anche così, perché magari vengono fatti dei commenti con leggerezza. Beh, diciamo sì che è uno strumento, secondo me non tutte le persone sono in grado di giudicare il lavoro che si fa in un ristorante o che se ci sono cose eclatanti che veramente uno mangia male o non lo so, cose veramente gravi, allora è giusto che uno lo scriva e che lo faccia sapere per avvisare le altre persone che non è un bel posto. Il problema è che ci sono molte persone che giudicano il lavoro un lavoro senza sapere niente del perché vengono fatte certe cose, da dove arrivano il prodotto. Cioè giudicano solo il piatto finale, che è l'ultima cosa che viene fatta nel lavoro di un ristoratore, perché prima a monte ci sono molte altre cose, da recuperare le materie prime, da pensare al piatto, e loro magari, non so, per rabbia o perché hanno la giornata storta, perché per tanti motivi possono andare a casa e giudicare il lavoro, insomma, di tutti quanti, non solo del proprietario, perché poi quando si prende una recensione negativa, sì, tutti insomma... Cioè non c'è mai nessuno contento, si crea un clima un po' di tensione, tutti un po' arrabbiati, insomma non fa bene. Nel caso in questione invece il rischio può anche essere che uno si faccia influenzare da una recensione di questo tipo e decida di non assumere più persone, ad esempio di colore. Ma può anche darsi, sì. È il suo caso? No, beh, io no, assolutamente. Anzi io, no, noi abbiamo una filosofia ben precisa e sì. Si vuole, insomma, non possono farci cambiare idea per una recensione. Poi comunque le recensioni vanno lette anche con un po' di leggerezza, perché se uno comunque legge tutto quello che scrivono veramente si rovina le giornate. Senta, la ragazza come l'ha presa questa situazione? Adesso è abbastanza tranquilla, però comunque sicuramente se lo ricorderà per un bel po'. Lei mi diceva che avete anche avuto molti commenti sulla vostra pagina Facebook. Ma sì, di persone insomma che ci davano addosso, che insomma dicevano che non era razzismo, ma sì, è un po' anche la stessa cosa di TripAdvisor, dove la gente può scrivere quello che vuole, qualunque pensiero, e questo va bene fino a un certo punto, perché dopo cominciano a essere magari offensivi, insomma. Ci sono stati commenti offensivi nei confronti di questa ragazza? Sì, ce ne sono, sì, no, su di loro, su di lei no, su di noi che abbiamo... ha fatto uscire l'articolo tutto che avete difeso noi, questa sì. Posizione sì, esatto, quindi insomma sì ma si sa insomma che si offende, è un'offesa gratuita. Io ringrazio però, sì. Riccardo Gaspari e tutto lo staff del Brite dell'Arieto di Cortina, lunga vita ai canederli. Esatto, canederli all'ampezzana, ingredienti per 4 persone: 200 g di pane bianco raffermo, 150 g di specca a fette sottili, 150 g di salame, 100 g di lardo in una sola fetta, 100 g di farina, 3 uova piccole, 1,6 litri di brodo, 3 decilitri di latte, un mazzetto di erba cipollina, un mazzetto di prezzemolo, noce moscata, pepe e sale. Preparazione. sbattere le uova in una ciotola con il latte e una presa di pepe. Unire il pane a cubetti e lasciar riposare per alcuni minuti, mescolando di tanto in tanto. Aggiungere 2/3 dello speck tagliato a listarelle e poi tritato grossolanamente. Il salame a dadini, metà dell'erba cipollina tagliuzzata, il prezzemolo tritato fine, un pizzico di sale e una grattugiata di noce moscata. Mescolare e incorporare la farina poco alla volta, badando di ottenere un impasto non troppo umido. Prendere delle piccole quantità di impasto con le mani inumidite e ricavarne delle palline grandi come noci. A mano passarle nel brodo in ebollizione per una dozzina di minuti. Nel frattempo tagliare a dadini il lardo e a listarelle lo speck rimasto, facendoli rosolare prima l'uno e poi l'altro separatamente in una padella antiaderente. Scolare i canederli con un mestolo forato, lasciarli sgocciolare qualche istante e quindi disporli su un piatto di portata a caldo, dove condirli con il lardo, lo speck e l'erba cipollina, portando subito in tavola. Grazie Riccardo, grazie, alla prossima. Grazie. Arrivederci. Shock me, hey. The way you move it here, hey. Just wanna feel it from you, hey. Don't be afraid to catch feels, ride your cup and chase through, hey. I know you ain't afraid to pop pills, hey. Baby, I know you ain't scared to catch feels. È tutto per questa puntata di Indovina chi viene a cena. Io vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 21. Abbiamo cambiato orario, non più cene notturne, ma cene in prima serata. Ringrazio per questa puntata, per la collaborazione tecnica, Filippo Aureggi, tutti voi per l'ascolto. Vi ricordo che potete scriverci per commenti, suggerimenti, anche critiche a indovina@radio24.it e potete contattarci anche sulla pagina Facebook del programma Indovina chi viene a cena. Appuntamento quindi a sabato prossimo con altre storie, altri personaggi, e ricordatevi che i gusti cambiano a tavola come nella vita. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, ciao. You've got to give a little. That's the glory of a